Ed ora permettete che vi presenti lo straordinario uomo gorilla. Ed ora permettete che vi presenti lo straordinario uomo gorilla. Ed ora permettete che vi presenti lo straordinario uomo gorilla. Permettete che vi presenti lo straordinario uomo gorilla. Gorilla vuole salutare questo gentile pubblico. Prego! L'uomo gorilla vuole salutare questo gentile pubblico. Prego! pensiero, ribelle in cor ci sta, dei miseri le turbe, sollevando fu modo ogni nazione, messi al bando nostra patria e mondo intero, nostra legge la libertà ed un pensiero. We'll be right back. droga è morta, già. La droga è morta, già. La droga è morta, già. La droga è morta.